Magas. Da Mavianella. Ha aperto il microfono. Oprolo. Equalizzolo. Missolo. Dammi un sine. Dammi un none. E non è bemolle, ce l'hai. Dai, forza, ne la famo. Dammo che la base, dai. 1, 2, 3, 4. Milano. Te sei persa un grosso sindaco. Ma io non te porto neanche. Perché Milano è come una bella donna. La devi corteggiare. Non gli puoi mettere subito la mano in del sotto. Dimmi soltanto una cosa, non arriva a Milano. Gli risulta che Storace avrebbe detto che Mastella gli diceva che cosa, ma avrebbe dato un calcio in del posto. Gli risulta. Milano, te sei persa un grosso sindaco. Ma la prostata dirà la verità. Quando vi è domenica dirò Milano vestiti e porto con la macchina a mangiare i castelli. La gente si è stufata da portare a mangiare i politici. Andiamo con mia suocera a mangiare i castelli. È tanto liberatore. Milano, io non te porto rancore, io te lo fa conoscere la mortadella, te conosci solo il panettone, perché questo problema del panettone è che se lo tagli fino si sbruciola, invece la mortadella richia, a tagli fino, si mette in bocca e si sguaia, hai capito? È sinomo di genuità e garanzia del consumatore. Milano, te sei persa un grosso sindaco, ma la prostata dirà la verità. E quando vi è domenica dirò Milano vestite che porto con la macchina a mangiare i castelli. La gente si è stufata da portare a mangiare i politici. Andiamo con mia suocera a mangiare i castelli. Ma quando vi è domenica dirò Milano vestite te porto con la macchina a mangiare i castelli. La gente si è stufata da portare a mangiare i politici. Andiamo con mia suocera a mangiare i castelli. È tanto liberatorio. Hai capito? Ne avamo. Smorzolo. Ne avamo. Dai, spegna la cassa. Smorza la pianella. Osteria numero 8. Oh, ha finito da fischiare? Ha finito? Fammi una grossa cortesia.